Rassegna eventi. E torna la settimana dei segni eventi del Wombat, i migliori eventi negli spazi occupati e autogestiti fiorentini. Si inizia subito con lunedì 28, e è un lunedì 28, ma sarà tutti i lunedì dalle 12.30 alle 15, pranzo in polveriera. Appunto, ogni lunedì, salvo ripiglini lunghi da estenuanti weekend, la polveriera sarà aperta dalle 12.30 alle 15 per offrire agli studenti e alle studentesse un luogo di ritrovo dove mangiare il proprio pranzo insieme, fare due chiacchiere, leggere un libro o semplicemente rilassarsi tra una lezione e l'altra. Sempre lunedì ci sarà il consueto cinema al CPA. Questo lunedì ci sarà la strategia del ragno, preceduto da un aperitivo alle 19 e cena alle 21 e poi l'inizio della proiezione alle 22. La strategia del ragno è un film di Bernardo Bertolucci del 1970. Martedì 29 alle ore 19, sempre alla polveriera, ci sarà l'assemblea cittadina con non una di meno Firenze, che si prepara a lanciare per il terzo anno consecutivo lo sciopero delle donne e il corteo per la data dell'8 marzo, segnatelo, e invita tutte le realtà del territorio fiorentino a costruire insieme quella data. Mercoledì 30 scaldatevi, perché alle ore 15 presso in via Cavour ci sarà il presidio alla città metropolitana mentre si tiene l'assemblea del sindaco con le rappresentanti degli studenti, perché il collettivo auto-organizzato K1 ha deciso di farsi sentire e di essere presenti fuori dal Palazzo Medici mentre Nardella parlerà con le rappresentanze degli istituti fiorentini, perché i problemi sono tanti nelle scuole e c'è la necessità urgentissima di affrontarla. Sempre mercoledì alle 19.30 ci sarà una serata in solidarietà della Palestina presso lo studentato autogestito PDM. La cena sarà offerta libera e dalle 21 ci sarà il dibattito sulla questione palestinese e la proiezione del film Yalla Yalla. A seguire giovedì 31 Briccobaldo è al lavoro. Sempre allo spazio ci sarà l'assemblea dei movimenti in polveriera giovedì 31 alle 18. Non mancate, è un evento veramente importante. Esatto. E sempre giovedì riapre lo spazio sociale C81, che tutti i giovedì dalle 16 alle 21 ci saranno pomeriggi aperti all'insegna della socialità e del divertimento, ciclo officina, serigrafia, biblioteca e tanto altro. Benissimo, siamo di nuovo a giovedì 31, prego Gringo. Alle ore 18 in via degli Alfani 49 Rosso, chi erano i sostenitori del Leave e del Remain? Cosa comporta questo passaggio storico per i popoli della Gran Bretagna e quelli europei? E dopo la bocciatura del piano di Theresa May, quali sono gli scenari che si aprono? Fondamentalmente lo spazio inchiostro che fa un incontro sulla Brexit. Il perché sì, il perché no. Sempre giovedì ci sono veramente tantissimi eventi. La consueta Critical Mass mensile, l'ultimo giovedì del mese. La massa del D. Più fredda dell'anno, la massa più fredda dell'anno, quella di gennaio, dalle 18.30 in piazza Santissima Annunziata. La massa della merla. La massa della neve. Dai venerdì 1 abbiamo invece presso sempre la polveriera il progetto di rete SET in Europa e il suo nucleo fiorentino si presentano e raccontano come ci si sta muovendo per studiare e affrontare questo fenomeno abbastanza impattante. È un po' la presentazione della rete, questa qua è la prima uscita, il nodo fiorentino è nato da pochissimo, è una rete che si estende un po' in tutta Italia, ma in tutto il sud dell'Europa. Alcune delle città italiane che mi vengono in mente sono Bergamo, Bologna, Firenze, Genova, Napoli, Rimini, Roma, Venezia, ma se ne aggiungeranno anche ora altre, speriamo. Molto importante, ripetiamo, in Polveriera venerdì 1 febbraio alle ore 18:30. Sempre venerdì 1 febbraio ci sarà una serata di autofinanziamento della sala prove del CPA. Alle ore 20 la cena popolare, alle ore 21 l'incontro al CPA, rompere l'isolamento, abbattere il fascismo. E poi concerti a seguire. Concerti a seguire dalle ore 23 con Balls of Fire, che è un punk, Marmaglia, che è una consaglia post-punk, poi a seguire DJ set scamp punk reggae. L'intero ricavato naturalmente andranno a sostenere le spese della sala prove della Neo sala prove al CPA. Sempre venerdì 1 dalle 22 allo spazio YAM, quindi in via Baracca 2R. Ci sarà la festa, si festeggia un anno di Palestra Popolare Gogo Rigacci, quindi lì allo YAM. Tutti invitati, ci sarà un DJ set e anche, se leggo bene, alcuni esempi di boxing. Sì, ci saranno anche delle dimostrazioni. Sabato 2 al Prezzo Piazza dell'Indipendenza alle ore 16 ci sarà appunto un presidio che avviene in concomitanza con l'entrata in vigore del DL Salvini, che attacca duramente una fascia di persone per la loro condizione di immigrati, con misure come lo smantellamento del sistema SPRAR, la cancellazione dei visti umanitari e il controllo della posta, naturalmente, e il rientro alle ore 20. Accorrete numerosi, è assolutamente una priorità questa, ripeto, in Piazza Indipendenza, sabato 2 febbraio alle ore 16. Sempre sabato alle 22:30 al Next Emerson ci sarà una serata benefit per le spese legali conseguenti al G7 di Lucca. Suoneranno direttamente da Lecce No Finger Nails, Paco Ten, Sandro Sax e Gianni De Donno. La rassegna degli eventi settimanale termina qui, noi vi lasciamo e a risentirci la prossima settimana. Wombat. Rassegna eventi.